Nel 1968, con la famosa enciclica Humanae Vitae, Paolo VI pose a tema la questione della contraccezione. Già allora egli mise in guardia dalle fatali conseguenze che avrebbe avuto l'intervento dell'uomo nell'ordine naturale. La vita è troppo grande, troppo sacra perché la si manipoli. È come se avesse voluto dirci: se non rispettiamo la vita dei bambini, perderemo la vita noi stessi, la nostra società, il nostro mondo. Forse allora non si poteva comprendere questa visione. Oggi assistiamo non solo ai danni giganteschi che la pillola anticoncezionale ha prodotto sulla salute e sull'ambiente. Vediamo pure come i nostri sistemi sociali crollano perché siamo divenuti una società senza figli, che perde le sue fondamenta. E tuttavia la Chiesa Cattolica riesce a stento a rendere comprensibile la sua morale sessuale. Una top model brasiliana afferma, ad esempio, che al giorno d'oggi non c'è una sola donna che arrivi vergine al matrimonio. Un vescovo ausiliario, emerito, critica la Chiesa perché alle questioni relative alla sessualità e al matrimonio darebbe risposte a stento vivibili per gli uomini, ed in effetti si vive diversamente. È una problematica ampia. In quest'ambito ci è impossibile analizzare tutte le sfaccettature e addentrarci nei dettagli. È giusto che in questo campo molte cose debbano essere ripensate ed espresse in modo nuovo. E tuttavia, per rispondere alla top model ed anche al pensiero di molti altri, la statistica non è il metro di giudizio della morale. È grave abbastanza quando la demoscopia diventa il criterio per assumere decisioni politiche, quando furtivamente ci si chiede come aumentare il mio consenso invece di domandarsi che cosa è giusto fare. E così anche i sondaggi rispetto a come si vive e a che cosa si fa non rappresentano già in sé il criterio del vero e del giusto. Paolo VI ha avuto profeticamente ragione. Era persuaso del fatto che la società deruba se stessa delle sue grandi speranze se uccide le persone con l'aborto. A quanti bambini si toglie la vita che un giorno sarebbero potuti diventare geni, che avrebbero potuto donare al mondo cose nuove, che avrebbero potuto regalarci un nuovo Mozart, nuove acquisizioni scientifiche? Dovrebbe considerarsi quale riserva di capacità umane si distrugge volendo del tutto prescindere anche solo per un attimo dal fatto che i bambini non nati sono persone umane, la cui dignità e il cui diritto alla vita dobbiamo rispettare. La pillola anticoncezionale è un altro problema ancora. Quello che voleva dire Paolo VI, la sua grande visione che rimane valida, è questa. Se si separano fondamentalmente l'una dall'altra, sessualità e fertilità, è quello che accade con l'utilizzo della pillola, allora la sessualità diventa una cosa qualunque. Dopo, tutti i tipi di sessualità hanno lo stesso valore. Questa concezione vede nella fertilità qualcosa di distinto, così che i figli sono riproducibili razionalmente, in essi non vede un dono di Dio, ed a questa concezione in effetti è seguita ben presto quella che equipara l'omosessualità. Le prospettive dell'umane vite restano valide, ma altra cosa è trovare strade umanamente percorribili. Credo che ci saranno sempre delle minoranze intimamente persuase della giustezza di quelle prospettive che vivendole ne rimarranno pienamente appagate, così da diventare per altri affascinante modello da seguire. Siamo peccatori, ma non dovremmo assumere questo fatto come istanza contro la verità, quando cioè quella morale alta non viene vissuta. Dovremmo cercare di fare tutto il bene possibile e sorreggerci e sopportarci a vicenda. Esprimere tutto questo anche dal punto di vista pastorale, teologico e concettuale nel contesto dell'attuale sessuologia e ricerca antropologica è un grande compito al quale bisogna dedicarsi di più e meglio.